bella, incanta una donna come lei, come lei, non ti non, non ti non, non ti questo velo è troppo basso, e le piume un po' girate, così, guidate, io sola, sopra. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Taddeo, Caimacane, ti presento, ser Taddeo, Caimacane. Faccio a credi quanta stima di te faccia Mustafa. Faccio a prendi quanta stima di te faccia, di te faccia. Suave.

mai sento? Papataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, papataci, che vuol poi, che vuol poi significar? Accolata color che mai non sanno disgustarsi, disgustarsi col ben stesso. tener dal bei per Isabella. Il mio piede senza altro. Ah, sarà bella, ma con quel mezzo termine. Per far la cerimonia. Billò, altri saranno vestiti da pappataci, ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello. Il gioco più bello non si può far. Ma eccola per Bacco, se con gli schiavi ancora. Ne ero sicuro. Quanto è brava tu stai. Con due parole agli sciocchi fa fare quello che vuole. Hey, Sto pensiattar, in tan ridere sto e schiantar. Frate carissimi, fra voi son lieto, di rintrarmi con il vostro cielo, sarà una grazia particolar. Oh,

Sposa mia non più italiane, per la fede mi perdona. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。